Respiro. Buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti a Respiro, sono Cristina Carpinelli e oggi vi parliamo di Tetra Pak, cercando anche di capire come va riciclato, ma anche cercando di dare qualche numero su questo contenitore che fa parte del nostro vivere quotidiano. Siamo andati a farci spiegare tutto da Michele Mastrobuono, che è direttore ambiente e relazioni esterne di Tetra Pak. E Tetra Pak in Italia è una realtà, è stato il primo mercato fuori dalla Svezia, visto che la nostra casa madre è svedese, ed è quindi un mercato oramai consolidato da oltre 40 anni, quello italiano. Attualmente in Italia noi immettiamo al consumo quasi 5 miliardi di confezioni ogni anno, che significano in termini di peso circa 100.000 tonnellate di materiale, che è una piccola cosa rispetto ai 4 milioni e mezzo per esempio della carta che vengono immessi ogni anno. In ogni caso sono sufficienti per fare sì che la nostra azienda si impegni in prima persona per occuparsi anche poi del recupero di questi materiali e dell'avvio successivo a riciclo. E attualmente è possibile effettuare la raccolta differenziata dei nostri contenitori per il 50% della popolazione italiana. Infatti, in base ad un programma che abbiamo lanciato alcuni anni fa, mano a mano stiamo estendendo la possibilità della raccolta differenziata comune per comune. Va da sé, credo che sia cosa ben nota, il fatto che ogni comune può decidere cosa raccogliere e come raccogliere i vari rifiuti che sono presenti sul territorio. Quindi anche nel caso dei nostri imballaggi noi abbiamo come interlocutori privilegiati proprio i comuni e a fianco anche al consorzio Comieco, che è il consorzio preposto per la raccolta e riciclo dei nostri contenitori, noi attiviamo campagne di sensibilizzazione ai cittadini per fare raccogliere i nostri contenitori. Direi quelle più importanti sono due modalità diverse di raccolta. Una modalità, che è quella prevalente, è che questi contenitori vengono raccolti assieme alla carta, e quindi insieme alla carta intendo insieme agli altri imballaggi di cellulosa, e spesso e volentieri poi viene attivata anche la raccolta proprio di giornali, quindi altri generi di carta che non sono solamente imballaggi. In questo caso, che è circa l'80% dei comuni che sono stati attivati, quindi i nostri contenitori, se noi volessimo seguirli in un viaggio immaginario, finiscono assieme alla carta, con la carta vengono trasportati poi in cartiera, qui recuperati nei normali processi di lavorazione della carta, e tornano quindi a formare carta, considerando che il nostro imballaggio è costituito al 74% mediamente di carta, e quindi questa parte di cellulosa può essere recuperata. Il rimanente scarto, cioè che è polietilene alluminio, quindi il restante 25%, invece finisce all'interno dei rifiuti normali che vengono prodotti in una cartiera. Invece esiste un 20% di comuni nel quale, come ad esempio prevalentemente quelli della Toscana, ecco, se vogliamo fare degli esempi, in cui invece i nostri contenitori vengono raccolti insieme alla plastica e al vetro e alle lattine. In questo caso, a valle della raccolta, viene effettuata una separazione di questo materiale, e questo quindi ci consente di avviare i contenitori in maniera proprio separata e differenziata presso due cartiere che si sono diciamo specializzate nel tempo per recuperare i nostri contenitori, e in questo caso è possibile recuperare anche la frazione di polietilene ed alluminio, che viene successivamente quindi separata dalla carta ed avviata ad un altro centro che si trova nel torinese, e che è in grado proprio di ridare una nuova vita a questo residuo di polietilene ed alluminio. Ovviamente i processi di separazione del materiale richiedono delle economie maggiori rispetto a finire all'interno di un flusso della carta, anche se, come abbiamo detto, consentono magari un recupero più completo di questi contenitori. Altro tema di nicchia, ma che prima o poi ci riguarda tutti, è il tema delle batterie esauste. Chi se ne occupa? Dove vanno a finire? Ce ne ha parlato il presidente di COBAT, che è il Consorzio Nazionale Batterie Esauste, e si chiama Giancarlo Morandi. Sentiamolo. Cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto in tutti questi 20 anni? Abbiamo raccolto su tutto il territorio italiano le batterie al piombo esauste, quelle che ormai non funzionano più, non possono più funzionare. funzionare, non possono essere ricaricate, e le abbiamo avviate al riciclo, cioè abbiamo prodotto nuova plastica, nuovo piombo, nuovo acido solforico. Praticamente ogni anno cadono in servizio 16 milioni di pezzi di batterie che noi raccogliamo su tutto il territorio nazionale, da Bolzano a Trapani, no? E queste vengono avviate agli stabilimenti che le frantumano e poi le lavorano, e produciamo per cui 110.000 tonnellate di piombo, no? Che provengono dalle 200.000 tonnellate di rottame che raccogliamo. Per cui un vantaggio per l'ambiente, perché da una parte togliamo un rifiuto pericoloso, perché la batteria, proprio per il suo contenuto in piombo e acido, viene classificata come rifiuto pericoloso, ma dall'altra parte anche per l'economia nazionale, perché evitiamo di importare piombo e abbiamo un piombo che praticamente ha la propria miniera in casa nostra. Ci spiega come si fa a recuperare il piombo, cioè tecnicamente voi cosa fate? Le batterie vengono raccolte, vengono avviate in questi 6 stabilimenti che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale, sono a Messina, a Lamezia Terme, poi a Marcianise vicino a Napoli e poi nel nord Italia a Paderno Dugnano, Brugherio e Brescia, per cui sono distribuiti geograficamente in modo tale da raccogliere senza grosse spese di trasporto tutte le batterie che cadono in servizio. Queste vengono portate all'interno degli stabilimenti, frantumate con un impianto apposito che divide poi i diversi componenti, la componente liquida che appunto è quella di l'acido, la componente della plastica che è una componente leggera e quelle invece che sono i composti di piombo. Questi poi vengono avviati in forni particolari che successivamente li raffinano con l'introduzione anche naturalmente di altri metalli per aiutare questa raffinazione, questa lavorazione, e alla fine dopo il passaggio in diversi impianti ne esce il piombo nuovo come quello che viene estratto dalle miniere. Ecco, i numeri che lei ci ha fornito ci fanno pensare che 20 anni di esperienza sono serviti, perché mi pare di capire che anche la coscienza dei singoli sia migliorata, insomma, sul fronte delle batterie esauste. Quali sono, diciamo, in prospettiva gli obiettivi che voi vi ponete come Consorzio Nazionale Batterie Esauste? Ma noi vogliamo continuare a fare il nostro dovere, il nostro lavoro, che è quello di tenere pulita l'Italia di questo rifiuto pericoloso. Piace ricordare che in questi 20 anni abbiamo portato l'Italia ad essere la prima nel mondo in questo particolare settore di nicchia, no? Perché le batterie esauste vengono raccolte naturalmente anche in altri paesi e viene fatto pagare un piccolo fee ai consumatori, e noi siamo quelli che facciamo pagare il sovrapprezzo, diciamo la tassa ambientale più bassa di tutti, 70 centesimi di euro, no, per una batteria quando la si va a comprare, e la si va a comprare ogni 3 anni, per cui veramente un costo insignificante all'anno, e raccogliamo una quantità che è paragonabile a quella raccolta nei grandi paesi con forte esperienza ambientale come la Norvegia, la Svezia e la Finlandia. Respiro. Bentrovati a Respiro, seconda parte. Andiamo ad Ancona, nel porto di Ancona, da area inquinata, sottoposta a trattamento perché piena di costruzioni in amianto, a sede di una centrale del fotovoltaico, una delle più grandi d'Italia. I lavori inizieranno tra poco, a fine anno. Ci siamo fatti spiegare quanto costerà, quanta energia produrrà e soprattutto come cambierà l'intera area del porto di Ancona da Enrico Cappanera, che è l'amministratore delegato di Energy Resources. L'impianto sorgerà presso il fabbricato ex Tubimar nel porto di Ancona. È un fabbricato in questo momento fatiscente, in disuso, che ha delle problematiche anche di presenza d'amianto nel tetto e che era un peso per la holding Porto di Ancona, in quanto era prevista a breve la ristrutturazione, un peso economico. Nell'ottica della gara che è stata promossa c'era la volontà di mettere a disposizione i tetti come affitto, per far sì che chi vinceva la gara poteva beneficiare di appunto un affitto ventennale e compreso la sistemazione delle coperture a proprie spese, quindi la vincitrice. Noi insieme al Conscop e a Edra Ambiente ci siamo aggiudicati questa gara con l'utilizzo di una tecnologia ad alta efficienza, un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, SunPower, per 3200 kW che andremo a realizzare già da dicembre, ovviamente previo la sistemazione delle coperture, lo smantellamento dell'amianto, tutta quindi una prassi consolidata. A fronte di questo noi prenderemo come associazione temporanea di imprese un incentivo che ci permette di concedere alla Holding Porto di Ancona sia la sistemazione delle coperture, come dicevo, che anche un affitto annuale. Quindi questa è una sinergia importante per poter procedere a fare investimenti sulle energie rinnovabili. Stiamo parlando della possibilità di non emettere 1600 la CO2 per 1600 famiglie, quindi c'è comunque un risvolto anche per la comunità. Questa energia che si produce viene riversata in rete e quindi la necessità della città diminuisce di quella potenza e quindi diminuiscono anche le emissioni relative. Ecco, allora, per fare una breve sintesi, voi di fatto bonificherete l'area, cioè quindi toglierete l'amianto, sì. Provvederete a installare questi pannelli fotovoltaici, 15.248 moduli fotovoltaici, sì. 1.600 abitazioni verranno alimentate con questo... Non direttamente, diciamo l'equivalente di 1.600 abitazioni, perché l'energia di norma in queste situazioni viene ceduta alla rete. E quindi è in maniera indiretta, questa energia che noi daremo sarà energia che gli utenti potranno utilizzare e non prenderla più dalle centrali tradizionali, quindi al ciclo combinato classico che comunque emette CO2. Voi cosa avete detto? Ci prendiamo per 20 anni l'affitto di quest'area, vendiamo l'energia, ci rientrano i soldi che abbiamo investito, sì. Ma non solo, poi dopo andiamo in attivo. Beh, c'è anche un contributo statale notevole del conto energia, che è questa incentivazione che è partita nel 2007 e che sta dando all'Italia un ruolo predominante. Siamo la quarta potenza mondiale che sta investendo nel fotovoltaico. Questo incentivo consente a noi di fare questo investimento e al porto di beneficiare di questa appunto ristrutturazione. E tutta l'area come verrà utilizzata? Ah, poi sono comunque recuperati come magazzini, sono magazzini dell'attività portuale che avevano quella destinazione lì e che in questo momento avevano difficoltà a essere utilizzati proprio per la fatiscenza della copertura. Quanto costerà più o meno questo lavoro? Circa 16 milioni di euro. Come prevedete che rientrino, insomma, in quanto tempo? Ma di norma un impianto fotovoltaico ha un rientro di circa 10 anni, nel nostro caso sarà un pochino più lungo dovuto al fatto della presenza dell'amianto e dell'affitto che dobbiamo concedere all'amministrazione, quindi ritengo almeno 12-14 anni. Ecco, quante persone lavoreranno per creare questo impianto? Ma io credo che mediamente per tutto il periodo almeno 150-200 persone, considerando l'arco dei 6-8 mesi di lavorazione. Io come Energy Resource, noi in 3 anni siamo passati da 4 persone a 70 persone e il nostro fatturato è passato da 300.000 euro nel 2006, quest'anno chiuderemo intorno ai 28-30 milioni di euro, quindi devo dire che il nostro settore non può proprio parlare di crisi. Da Ancona a Peglio, in Trentino, dove è stata inaugurata una centrale a biomasse, questa volta la centrale alimenterà lo stabile della San Pellegrino, ma la storia non è tutta qui. La centrale infatti sarà alimentata dagli scarti dell'attività produttiva della regione Trentino, che, come sapete, tra le altre cose è famosa per la produzione di mele. Ecco, molti degli scarti arriveranno da aziende agricole, dalla manutenzione dei boschi e da industrie per la lavorazione del legno. Ne abbiamo parlato con Stefano Agostino, amministratore delegato della San Pellegrino. San Pellegrino sta portando avanti una serie di progetti che coinvolgono le aree dove abbiamo le attività produttive. Noi abbiamo la fortuna di avere vari stabilimenti in Italia in zone montane, quindi in zone molto belle, zone protette che garantiscono appunto la qualità dei nostri prodotti, delle nostre acque minerali. Quindi il nostro impegno è quello di portare avanti progetti di sostenibilità che coinvolgano anche attività innovative nell'area della generazione delle energie. Nel caso di Peglio c'era l'opportunità di portare avanti un progetto virtuoso, perché è un progetto portato avanti con le istituzioni locali, quindi con la provincia, col comune di Peglio e con una società specializzata nella generazione di energie alternative che si chiama Enerprom, nel posizionare un nuovo impianto di cogenerazione che è praticamente una caldaia che funziona a biomassa, e la biomassa non è nient'altro che tutti gli scarti di legno che provengono dai disboscamenti dell'area del Parco dello Stelvio o dalle potature di tutte le piante del territorio, quindi principalmente sono i meli. Questa è una risorsa importante in quel territorio, però è una risorsa che molte volte non viene utilizzata. Quindi l'idea corretta è quella di utilizzare appunto questi scarti di legno per la generazione di energia tramite questi impianti, queste nuove caldaie. Ecco. Noi abbiamo messo a disposizione un'area vicino allo stabilimento, abbiamo quindi stoppato le vecchie caldaie che erano a combustibile, oli combustibili, e oggi questa nuova caldaia praticamente alimenta il 100% del fabbisogno di aria calda e di energia dello stabilimento, e in futuro, quindi nei prossimi mesi, il comune sta lavorando per praticamente stendere dei cavi che daranno la possibilità anche ai residenti e all'attività commerciale del comune di Peglio di attingere energia da questo nuovo impianto. L'idea è un'idea, chiaramente c'è anche bisogno del sostegno del territorio, quindi delle istituzioni, però è quella che poi abbia anche un senso economico, nel senso che che ci sia anche una convenienza economica, in quanto si utilizza una risorsa importante però disponibile, e che l'investimento in questi macchinari sia un investimento gestibile, quindi che abbia proprio un senso economico. Per noi è interessante perché praticamente in futuro avremo un utilizzo di energia pulita, ma anche un costo inferiore, e lo stesso vale per tutti i cittadini, per tutti i residenti del territorio. Quindi questa è una cosa bella che coinvolge sia un'attività, un'azienda tipo la nostra, che abbiamo un'attività produttiva sul territorio, ma poi gli stessi cittadini, quindi non c'è un contrasto che a volte capita quando ci sono investimenti industriali, ma assolutamente massima collaborazione. Respiro termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che potete ascoltarci ogni sabato alle 16:30 e la domenica in replica alle 14, oppure andando sul sito di Radio 24 cercando poi la pagina di Respiro. Se volete scriverci potete farlo all'indirizzo respiro@radio24.it. Grazie a tutti e buona giornata da Cristina Carpinelli.